che c'è. E comincia Frigider. Esatto. Sono le tre. Con chi? Con DJ Ariel. Bella lì. Che bello è Frigider. 15:05, una nuova scoppiettante puntata di Frigider. Va bene, allora per tutti gli amici d'ascolto questo è il vostro momento, il momento in cui potete chiedere qualsiasi cosa. Frigider! Oh, Frigider! Amici ascoltatori, allegria! Salute a tutti! Subissateci di fax, inviateci lettere, letterine, mega messaggini, tutto ciò che vi capita per la testa. Mandate su a spedice, c'è cose fatto, ecco, molto fiero di rispondere. In rigorosa diretta dai giganteschi studi di Radio Rock FM, siti in via Locatelli 1 20124 Milano, anche quest'oggi affacciati su Piazza della Repubblica, diamo inizio a un nuovo appuntamento con la diretta del pomeriggio. Abbiamo la Mucca Camilla a tenerci compagnia e Mister Porto Fortuna agli studenti. Trombetta. Abbiamo Riccio Pasticcio. Il cavallo Nitro, il nitrito più rock di Europa, il pesce Nemo, il pesce d'aprile, e ci sarò anch'io, come annunciato dagli Zen Circus, la loro sigla sono le tre, il DJ Ariele. Ciao! Diretta fino alle 17, due ore a nostra disposizione per passare bene il pomeriggio sulle frequenze di Rock FM. Come è solito, rifaccio, prova due. Come recita un detto, chi ben comincia a metà dell'opera. E allora noi cominciamo bene oggi. Alice in Chain, Them Bow. Dan Bone, Alice in Chain. calmi, chi mi incomincia a metà dell'opera, capito? E mi impappino al volo. 15 e 10 minuti primi, ringraziamo il collega De Riu che ha prontamente e professionalmente sostituito la nostra collega Claudia, che da quello che ho intuito è a fare il tagliando. Ogni tanto anche noi rocker abbiamo bisogno del tagliandino, se no non si può circolare. Che fare? Beh, potrei ricordarvi le nostre coordinate, così come facciamo tutti i giorni, vediamo di gestire un po' l'attimo anche in base alle cose che ci scrivete. Come fare per contattarci? Semplicissimo. Un classico numero di SMS 338-6171-300 e una casella di posta elettronica ariel@radiorockfm.com. Quest'oggi non parleremo più del cantante dei Gorgoroth, che ormai è storia passata per noi di Frigidaire. Parleremo di altro. Sì, sì, sì, questo è certo. Di cosa non si sa ancora. Abbiamo 2 ore a disposizione per sceglierlo, vedete un po' voi. Posso sicuramente dirvi che questi sono i più 44. When your heart stop beating. Complimenti al batterista dei più 44 e la sua batteria trasparente, molto scicchettosa, molto scicchettosa, verde pisello, ma trasparente. Ah, che finestra. D'altra parte, per un super batterista come lui, Plus 44, perché non riprendete il ritornello? Dai ragazzi, c'è la chiusura. When your heart stop beating. Ecco, visto. Vabbè, sarà un nuovo martedì all'insegna di Frigidaire's. Erano anni, cara Eliana, che non ricevevo messaggi dove mi chiedevano che fine avesse fatto l'afono topo frigo. Il topo frigo è morto ormai almeno 3 annetti fa, cara Eliana, mi dispiace, però ne abbiamo tanti altri nuovi. Ma mi fa piacere vedere che dozzine e dozzine di nuovi animali di plastica non sostituiscono nel vostro ricordo il primo, l'unico topo frigo. Un attimo di pensiero per lui, 5 secondi. Ciao topo frigo. Sembrava doveroso, no? E dai 5 secondi di silenzio per il topo frigo passiamo a una scarica di santi del giorno per questo 16 di gennaio. Rullo di tamburi per santi Berardo, Otone, Pietro, Acursio e Adiuto. San Dana, San Fursa, San Giacomo di Tarantasia, Beata Giovanna da Bagno di Romagna e Beato Giuseppe Tovini, Beato José Vas e Beata Juan Maria Condesa Luc, San Leo Bazio, San Marcello I, San Melas, Sant'Onorato di Arlè, San Panfilo e compagni, Santa Priscilla di Roma, San Tiziano di Oderzo e concludo con San Troverio. Oh. Perché che scarica di violenza dopo i santi del giorno. Fear Factory, vi ricordate? Questa era Replica, violenta come non mai. La violenza qui a Rock FM è sempre gratuita. Me now. cosa sarebbe il mondo senza i Bad Religion? Sarebbe un mondo triste. No? La cattiva religione con Sorrow. Maestre del punk rock. Ormai il funzionamento di queste due ore pomeridiane dovreste conoscerle bene, ma al solito si gestisce un po' l'attimo in base ai vostri messaggi, ne intravedo già ovviamente di piccanti, come è giusto che sia. Di solito manteniamo anche il livello culturale abbastanza alto, ma ho infrasentito che già il Mad Max quest'oggi è stato particolarmente, ha volato particolarmente alto, quindi io la butterei in cacciara oggi pomeriggio. Vedo dai primi messaggi che ancora potremmo portarci dietro questa cosa della costruzione dell'inno. Ieri ci è stato chiesto ufficialmente di comporre l'inno di Nevelandia e nel corso dell'appuntamento di ieri sono state anche fatte supposizioni false e tendenziose sui proprietari di Nevelandia, che mi chiedono espressamente di smentire quanto detto da qualche folle di voi là fuori ieri pomeriggio. Pena il licenziamento dalla scrittura dell'inno di Nevelandia. E poi, insomma, in base a quello che succede, gestiamo un po'. 338-6171-300, ariel@radiorockfm.com. Abbiamo il nostro CD della settimana tra pochi minuti. Nuovo appuntamento con The Cooper Temple Close. Nel corso della seconda ora, invece, l'imperdibile appuntamento con il nostro disco da scongelare. Abbiamo iniziato ieri un gran viaggio sul Led Zeppelin. Con Led Zeppelin 2, anche quest'oggi ennesima traccia, così tanto per sciacquarci la bocca, e poi tutte le rubriche di Frigidaire, Rock Shock, 3x1, quant'altro, ricchi premi e cotillon. Ci vede la settimana tra pochi minuti dopo la pausa pubblicitaria. Prima della pausa pubblicitaria, Bush, non W, ma la band, quella che faceva furore negli anni 90. Con un brano classicerrimo, questa è Machine Head. Ho anche qualche chicchetta di novità da farvi ascoltare oggi, eh? Puntata imperdibile di Frigidaire. Ah, fossi in voi me la registrerei, oppure la imparerei a memoria, così ve la ridite nel corso della giornata. Questa era stupida, eh? Stupida forte. chef Frigidaire, qu'est-ce que me ne fotta, moi? Rock FM Spot Live presenta Europe in concerto. Dopo la pubblicazione dell'album Secret Society, l'attesissimo ritorno della band svedese in formazione originale. Europe in concerto. 23 gennaio, Alcatraz, Milano. 24 gennaio, Tenda Strisce, Roma. 26 gennaio, Box Club, Nonantola, Modena. Europe in concerto. Un tour da non perdere. Biglietti su www.ticketone.it. Per info www.liveinitaly.com. 055 55 20 575. Radio ufficiale Rock FM. Energy Zone presenta Siddhartha. Rinasce a Prato il locale che ha segnato il passo del movimento alternativo italiano. Rinasce il sabato dei migliori concerti. Tornano le notti più inquiete, irriverenti e dissacranti. Siddhartha, assurdo non esserci. Il Siddhartha è a Prato, via Traversa Pistoiese 83. Info www.energyzone.it. Sabato 20 gennaio alla console della Rocoteca Claudia di Rock FM. Concerti dal vivo, Necrodeath più special guest Story of Jade. Voglia di trasgredire? Transfers. Da 30 anni ricerchiamo nel globo abbigliamento per stupire. Transfers. Fetish, dark, punk, vasto assortimento new rock, tuck shoes e inoltre ham shop. Personalizzazione t-shirt anche all'ingrosso. Piercing e accessori alternative. Alchemy and more. Transfers from 1976, the first alternative shop in Italy. Orario continuato tutti i giorni, domenica inclusa. Giovedì, open night fino alle ore 24 con DJ set e altro. In via Nazionale 123 Rosso, Firenze. Info 055 21 82 78 www.americantransfers.it. Trasgrediamo! Dall'8 gennaio saldi con sconti del 30% su tutta la merce. The best rock and roll station in the world. It's Rock FM. Won't you let me treat you kind? We're gonna burn shine. vecchio rocchettone di Ben Harper, la sua magica voce e soprattutto la sua magica slide guitar per una meravigliosa Born to Shine. La grande musica di Rock FM, solo qui potete roccheggiare così. Gran pezzo, eh. Poi mi fanno impazzire i coretti sotto, eh. Quando ci sono i coretti sotto così vado fuori di testa, veramente. Occupiamoci ancora di buona musica, ma soprattutto di novità. Loro si chiamano The Cooper Temple Close e sono il nostro CD della settimana, quindi sono la novità della settimana che vi facciamo ascoltare in 5 tracce per quanto riguarda noi di Frigidaire e altre 5 tracce al mattino con Marco Gravelli. Così avete una bella idea di come suona, di come è, di come gira un disco che speriamo possa venir voglia di andare ad acquistare. Si intitola Make This Your Own ed è per l'appunto il nuovo lavoro dei The Cooper Temple Close. Ben 11 le tracce contenute in questo lavoro e quest'oggi vi auguro un buon ascolto con la traccia numero 5, si intitola Waiting Game. Il CD della settimana. Traccia numero 5 del nuovo lavoro di The Cooper Temple Close. Il disco si intitola Make This Your Own e la traccia che vi ho proposto quest'oggi era la numero 5 nello specifico intitolata Waiting Game. Appuntamento con questi oscuri The Cooper Temple Close rinnovato domani pomeriggio all'interno di Frigidaire per il CD della settimana oppure domani mattina all'interno del Rock Discount con Marco Garavelli. Ancora pochissimi minuti e apro ufficialmente le gabbie, come diciamo noi in termine tecnico qui a Frigidaire, ovvero andiamo a leggere cosa mi state scrivendo al 338-6171-300, il nostro numero di SMS, e ariel@radiorockfm.com, la nostra casella di posta elettronica. Ma come ogni santissimo giorno, dopo la novità del CD della settimana, Rock FM vi offre una perla dal passato, quest'oggi tutta da ballare. Di Coretti, no? Chubby Checker, let's twist again. Right? Pure un po' di twist nel pomeriggio dei Frigidaire oggi, capito? Quanto siete fortunati. Mannaggia a voi! È da Radio Rock FM che si trasmette Frigidaire ogni giorno. Dalle 15 alle 17, un programma amato dai suoi radioascoltatori. E con un DJ che ovviamente ricambia in tutto e per tutto, un DJ che vi vuole bene più dei vostri stessi genitori. Il primo saluto che vado a fare è a una doppietta di radioascoltatori che mi scrivono via SMS, visto che il programma si chiama Frigidaire e noi siamo in fabbrica a saldare frigoriferi, fai un saluto a Pippo Iaio e all'Ombroso di Castellina. Beh, ovviamente, fateli bene i frigoriferi, mi raccomando. Mentre collegandoci a quella cosa, allora, per chi non avesse sentito la puntata di ieri, il parco giochi più grande del nord-est sulla neve, che si chiama Nevelandia, ha ufficialmente chiesto a noi di Frigidaire di comporre l'inno. Questa cosa ha ovviamente scatenato ilarità da parte dei nostri radioascoltatori. Dicevo, Frigidaire è un programma amato, ma anche un programma odiato e spesso stuzzicato dai propri radioascoltatori. Andrò a leggere con sufficienza questo SMS, tra l'altro nemmeno firmato, come se non ce n'è nemmeno bisogno di firmarlo, perché si riconosce il tocco di questi SMS, che recita così: siamo venuti a sapere che lei, signora Liere, è un gran compositore di inni. È per questo che vorremmo affidarle il compito di crearne uno per la nostra associazione. Cordiali saluti, Anonimi Alcolisti. Ho già l'inizio, pistola. Dovevi iniziare così. Innanzitutto, si chiamano Cold War Kids. Il brano è We Used to Vacation. Benvenuti su Frigidaire. Che schema ne fotta, mo'. My son's graduation. Punch the nipples, boy, for taking his seat. He gets all that anger from me. Says things could be much worse. Natural disasters on the evening news. Says things could be much worse. We still got our health, my paycheck in the mail. I promise to my wife. Such another trip. deductible charity organization. 2 weeks paid vacation won't heal the damage done. I need another one. Ti chiederei di chiudere ufficialmente questa cosa di Nevelandia. Intanto disannuncio Cold War Kids con We Used to Vacation. Mi chiedono sempre in maniera anonima, ma vi conosco mascherine ormai, eh? Al 338-6171-300, ma il proprietario di Nevelandia chi è? La Poelkan? Spiritosi, mannaggia. Comunque me lo sono giocato l'inno di Nevelandia, ufficiale. Cioè, chi me l'ha proposto stava ascoltando ieri. E questi commenti ovviamente non sono piaciuti per niente. Mi avete fatto perdere un lavoro che tra l'altro di questi giorni potrebbe anche farmi comodo, ve la dico proprio tutta sinceramente. Voltiamo pagina, come dicono i programmi seri. Vi ho detto che, visto che il programma che ci ha preceduto è stato abbastanza alto come livello, noi saremmo stati cialtroni, invece no. Mi ricredo, perché voglio proporvi una bella pubblicazione nelle migliori e peggiori librerie da qualche settimana, da Natale forse, di un personaggio che io personalmente ho amato molto e sono sicuro anche molti di voi là fuori, un grande autore di musica italiana che risponde al nome di Giovanni Lindo Ferretti. Un maestro che, come spesso e volentieri i maestri sanno fare, è in grado di spiazzare, di cambiare posizione. Però, insomma, quando uno ci hai voluto bene, poi ti rimane un po' lì nel cuoricino, no? Almeno così capita a me. Pubblica un lavoro, a nome per l'appunto Giovanni Lindo Ferretti, pubblica un libro che si intitola Reduce, pubblicato da Mondadori, 120 pagine, costo 13 euro. Dovreste saper bene chi è Giovanni Lindo Ferretti, partito da Cerreto Alpi, un paesino dell'Appennino emiliano, ha vissuto da punk a Berlino, dove incontrò il buon Massimo Zamboni, con il quale fondò i CCCP Fedeli alla Linea, più tardi la carriera si è evolta in CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, poi si è passato alla nuova avventura PGR per grazia ricevuta. Un uomo che ha viaggiato in lungo e in largo per tutto il mondo, che ultimamente è ritornato a Cerreto Alpi, nella Emilia che veniva cantata come Emilia paranoica all'inizio degli anni Ottanta. Oggi alleva cavalli, riscopre la meraviglia della natura, le sue origini cattoliche e tra l'altro ci tiene a far sapere che a oggi vota centrodestra. Si titola Reduce, a nome Giovanni Lindo Ferretti, una sorta di autobiografia scritta un po' in prosa e in parte in versi tratte dalle canzoni composte dal buon Ferretti. Viene definita opera coraggiosa di un artista, ma soprattutto di un uomo che vuole raccontare il suo percorso di vita e il suo cambiamento, che non rinnega il passato, ma ama il suo presente. Reduce, a firma Giovanni Lindo Ferretti. E quasi quasi ce lo gustiamo con i suoi CSI, brano di qualche annetto fa, la bellissima Forma e Sostanza. Evanescence, quasi in chiusura della prima ora di diretta. Sapevo che parlando di Giovanni Rindo Ferretti avrei smosso i miei ascoltatori, e soprattutto sbagliando a coniugare i verbi avrei smosso qualcun altro. Ringrazio per la notazione. E quando, beh, oh, che ci volete fare? Quando parlo di personaggi che ho amato in passato, spesso e volentieri poi cado in fallo, i commenti sono alcuni, reduce sì dagli acidi nel cervello, qui appunto mi sgridano il muro di Berlino e le case occupate, commenta qualcun altro via sms, via mail. Giuseppe da Milano dice che regalerà il libro appena consigliato alla sua ragazza per il compleanno. L'ha appena visto un concerto, presumo PGR, alla Pietra di Bismantova, gran concerto con tutti i classici. Quando riproporrete la rubrica Il Libro del Giorno, caro Giuseppe, intanto abbiamo ripristinato il disco da scongelare, che mi sembra già tanta roba, e poi vedremo anche di riprendere Il Libro del Giorno. Lillo, quando cerchi di essere politically correct sei nauseante, scherzo, grazie. E abbiamo anche Alberto, sarò cattivo, scrive l'ex CCCP, avrà anche cambiato idea politica, è un suo diritto, ma ascoltando il pezzo mi viene in mente che il muro è caduto e a me è caduto qualcos'altro. Orribile, grazie Alberto per il tuo commento. E intanto io chiudo allora la prima ora di diretta di quest'oggi, come è giusto che sia, con la nostra Rock Shock della settimana targata Daughtry, It's Not Over. Ci sentiamo tra pochi minuti per un'altra incendiaria ora di Frigidaire, dove potrebbe accadere di tutto, potrebbe anche non accadere nulla. I was blown away, what could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything, and I can't deal with that. I try to see the good in life, but good things in life are hard to find. Blow it away, blow it away. Can we make this something? Trasmissione, c'è l'Ariele Cialtrone che delira solo per te. Rock FM Spot. Rodrigo e Gabriela dal Messico con le loro chitarre e le loro splendide riletture dei classici del rock. Rodrigo e Gabriela, genio e passione. Rodrigo e Gabriela, nei migliori negozi di dischi. A Alter Night, Ippodromo delle Mulina, Parco delle Cascine, Firenze. Ogni venerdì la sola alternativa. Quattro piste a base di rock, goth, drum and bass, techno. Venerdì 19 gennaio Demons at Play con Roberta De Verdena e Davide Accorsi. Ingresso 5 euro. Alter Night, Ippodromo delle Mulina, Parco delle Cascine, Firenze. Rock FM. Moderno per la seconda ora di quest'oggi, The Fratellis, detti anche The Fratellis, con Chelsea Degg. Un'altra ora di Frigidaire nella prossima mezz'ora. L'appuntamento con il nostro disco da scongelare, ci si gusterà un'ennesima traccia dalle Zeppelin in 2. Le ho proposto anche una chicca, un inedito, ce l'ho già pronto sul mio lettore, di vecchi amici di Frigidaire. Intanto saluto Hank, che mi scriveva via mail, un saluto anche al classico Antlan, che ci lascia il fortune di quest'oggi, l'aforisma del giorno. Se lo stolto persistesse nella sua stoltezza, diverrebbe saggio. Da William Blake, Proverbi infernali. E si vola alti. Quanto si vola alti a Frigidaire. Saluto anche Mike, che voleva dedicare una canzone a quella ragazzina che ha tentato di spaccarlo in due. Buona vita, caro Mike, ne approfitto per dedicarle allora il brano che sto programmando. È uscito qualche mesetto fa, un lavoro a nome Schiantos, i miei amati Schiantos, e che si chiamava Sconnessi, dove proponevano il vecchio repertorio Schiantos in versione acustico. In versione acustica, sempre da quel repertorio acustico viene pubblicato una sorta di EP, insomma nove brani, che in realtà sono otto, perché anzi in realtà sono 7 perché ci sono un paio di doppioni, però all'interno ci sono anche videoclip di un paio di brani e c'è un'intervista, è pubblicato sempre dall'Atlantide che sta molto dietro alle ristampe degli Scantos. Questo disco si chiama Sesso Pazzo e tra le altre tracce, beh, ci sono classici in acustico come Ptadone e Gelati, imperdibile, Sesso Pazzo ovviamente, Io ti amo da matti, Sesso e carnazza, ma per la diretta di quest'oggi ci tenevo a dedicare alla ragazza citata da Mike, ma a sto punto a tutte le ragazze all'ascolto, una classicissima, Mi piacciono le sbarbine, Scandals. Canzone per tutte le signore. Piacciono le sbarbine. Piacciono le sbarbine. Non posso farci niente, mi piacciono le sbarbine, mi sento deficiente, yeah, yeah, yeah. Io lo so che non conviene, oh, no, mai. Però voglio starci assieme, yes. Quelle alte 1,80 m, mi piacciono le sbarbine, quelle basse 1,50 m, yeah, yeah, yeah. Non esiste divisione, oh, no, mai. Quel che conta è il calore. Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore, le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore. Mi piacciono le sbarbine, oh sì tanto, anche se mi van a soffrire, yeah, yeah, yeah. Non c'ho mai niente da dire, oh no, mai. Quel che voglio è solo amore, yes. E sono un tipo senza storia, mi piacciono le sbarbine, mi hanno fregato la memoria, yeah, yeah, yeah. Con l'amore di una sbarba, sì. Mi fa andare giù di testa, yes. Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore, le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore, yes, yes. Mi piacciono le sbarbine, tanto. Anche se mi fanno soffrire, yeah, yeah, yeah. Le sbarbine c'hanno gli occhi, oh, sì. Le sbarbine sopra i tacchi, oh, yeah. Se mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine, non posso farci niente, yeah, yeah, yeah. Io mi sento deficiente, yeah, yeah, yeah. Perché mi piacciono le sbarbine. E puoi dirlo forte, freak. Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore, le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore. Roberto Freak Antoni, ma soprattutto, oh, the Scantos. Oh yeah. Mi piacciono le sbarbine. Versione Unplugged, sconnessi. Tra pochissimo appuntamento con Led Zeppelin, tanto per restare in tema di mostri sacri del rock and roll. Saluti ancora a, vediamo qui, a Rosario, che si sintonizza in streaming grazie a RadioRockFM.com, ci ascolta da Vercelli in attesa di poterci riascoltare tramite radio normale. Speriamo, caro Rosario, a te come a tutti gli altri che ce lo chiedono tutti i giorni. E una standing ovation a Bonnie, il fedele radioascoltatore che ha battuto uno dei primi record del sito internet amore.net, il mio sito dove blogo, dove potete trovare i gadget della mia band e quant'altro. Bonnie ha comprato 50 barattoli dell'amore. Bonnie, grazie infinitamente da parte mia, di Mr. Pinguino, da parte degli operai del rock and roll, da parte di tutti noi. Sono cose che fanno piacere sapere che qualcuno compra 50 barattoli dell'amore. Sei il numero uno. Io proseguo con un brano, il tempo di inserire nel mio lettore il nostro disco da scongelare. Guarda un po' te, quanto tempo che non li ascoltavamo. Prodigy, questa è Smack My Bitch Up, in diretta su Frigidaire. 16 e 11 minuti primi, 338 6171 300, l'SMS mi trovate lì. oppure aria@radiorockfm.com, la mail, sono sempre lì. Prodigy. Passiamo dai prodigi a dei prodigi del rock and roll. Che giochi. King Shambomon. Ma che sta a dire, Ariele, per favore. Saluto Acio, il tuo aforismo è bello ma non lo leggo. Per dignità. Saluto Diana, ricambio i baci, chiede di scongelare Iron Butterfly. Buon gustaia. Salutiamo anche Nora. Ascolta da una piovosa Livorno, in barba a chi ha le frequenze che non ci sono più in streaming, presumo. Fortunati. Andiamo a occuparci del disco da scongelare. Allora, i prodigi del rock and roll si chiamavano Led Zeppelin, si chiamano Led Zeppelin. 1969 pubblicavano un capolavoro, Led Zeppelin 2, come d'altra parte capolavoro sono tutti gli album targati Led Zeppelin. Disco da scongelare, quindi tentiamo di evitare i brani più celebri programmando le altre canzoni. Tra l'altro Led Zeppelin 2 in realtà tutti i brani sono brani celebri, però vi consiglierei di mollare tutto quanto e dedicarvi solo al brano che sto per trasmettervi, The Lemon Song, traccia numero 3 di Led Zeppelin 2. Signori e signori, si roccheggia. Gentlemen, Led Zeppelin, una doccia di blues, The Lemon Song, traccia numero 3 di Led Zeppelin 2. Il nostro CD da scongelare e torneremo ad ascoltare domani, sempre più o meno nella seconda ora di Frigidaire. Tra l'altro 1969, anno di pubblicazione di questo Led Zeppelin 2, che secondo molti appassionati del genere viene riconosciuto come l'annata migliore in assoluto, cosa che viene spesso e volentieri ricordata anche dal mio collega Mox Cristadoro, a proposito di esperti del rock. Salutando Mox, vi faccio questa segnalazione. Settimana scorsa vi avevo annunciato la sospensione dei programmi serali per problemi tecnici che tuttora sussistono esattamente come prima, però la nuova politica di Rock FM è tentare, quindi anche questa sera dovrebbe tornare in onda Easy Rider, dovrebbe, che non so poi cosa va in onda, con una nuova puntata dalle 21 alle 22. Voi sintonizzatevi perché la puntata è sicuramente bella. Non so quanta ne va in onda, so che ieri è andata in onda tutta, quindi dovrebbe promettere bene. Però sono i problemi sono legati alla struttura tecnica, problemi ai quali veramente noi non possiamo che attendere la soluzione, o che si mettano a posto loro da soli, oppure che venga qualcuno a metterseli a posto. Stiamo aspettando, ragazzi, che ci dobbiamo fare. Il tutto si potrebbe risolvere entro settimana prossima. Intanto questa sera Easy Rider comunque dovrebbe andare in onda. Si chiamano After Hours e questa è Voglio una pelle splendida. È così che prosegue Frigidaire, questa giornata milanese un po' così. È bella la giornata, ma sì, dai. Stringimi madre, ho molto peccato, un marito, un suicidio, l'amore è un rovo, e voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida, senza un finale che faccia male, con cuori sporchi e le mani lavate a salvare. Rock FM. Rock FM Spot. La Nazione e la Fondazione Umberto Veronesi presentano l'Enciclopedia della Salute, un'opera chiara, pratica ed autorevole per una salute sempre più consapevole. Ogni lunedì con La Nazione ti aspetta l'Enciclopedia della Salute. Sapere aiuta a stare meglio. Sabato 20 gennaio 2007, Palalido di Milano, Night Fight Project, mondiali di kickboxing, full contact, point fighting e low kick, campionati regionali e italiani di kickboxing e inoltre mostre di quadri, fotografia, presentazione libri, esibizioni di musical form, kickstep power, capoeira, Night Fight Project, sabato 20 gennaio 2007, Palalido di Milano, per informazioni www.ludusmagnum.com. Circuito Event, il nuovo sabato notte all'Ippodromo delle Muline a Firenze. Quattro sale di puro divertimento. Sabato 20 gennaio, prima sala, Roots Reggae Dance. Seconda sala, una splendida esplosione di energia e musica. In console da Roma, i mitici Torretta Style. Terza sala, Alienation Open Your Bad Eye. Quarta sala, House Room. Circuito Event, lo trovi ogni sabato sera all'Ippodromo delle Muline, via del Pegaso, Parco delle Cascine, Firenze. Energy Zone presenta Siddhartha. Rinasce a Prato il locale che ha segnato il passo del movimento alternativo italiano. Rinasce il sabato dei migliori concerti. Tornano le notti più inquiete, irriverenti e dissacranti. Siddhartha, assurdo non esserci. Il Siddhartha è a Prato, via Traversa Pistoiese 83. Info www.energyzone.it. Sabato 20 gennaio alla console della Rocoteca Claudia di Rock FM. Concerti dal vivo, Necrodeath più special guest Story of Jade. Nuovo negozio Laserline Tattoo 2, l'alternativa, dove oltre a tatuaggi e piercing troverai abbigliamento Lucky 13, Nightmare Before Christmas, Hellcat, Felon, Misery, gadget e accessori. E tutto quello che non trovi da noi c'è. Siamo in Viale Guidoni 85 a Firenze. Laserline Tattoo 2, clothing, piercing, accessories, l'alternativa. Beato chi sceglie. Rock FM. Oh, get off the bus and I come as I'm running. At the truck stop at 3 in the morning, oh shit. And you thought you had time to take a dump. The kids up at the pool stop and have to lose the bus, don't split. Now you're asking the people for a ride. They won't look in the eye, they just found it to the head to the side. So on the side of the road, with the wheel to survive, with a nitty gritty goody, and I got them when they still give me a ride. Ass was all around and the jabberies killing me from it. J-A-B Brigade Fishbone, con tanto di raglio finale per iniziare l'ultimo blocco di questo martedì pomeriggio sulle frequenze di Rock FM. È sempre Frigidaire a farla da padrone, tra pochi minuti lo sarà il nostro 3x1, tre brani senza alcun tipo di interruzioni. Listen, you'll make us forget about you. Won't you, won't you, won't you, won't you? Trent Reznor e i suoi Nine Inch Nails con la meravigliosa Starfuckers Incorporated per portarci all'appuntamento mammanina con il nostro 3x1. Stiamo viaggiando in rigoroso ordine alfabetico il nostro palinsesto musicale all'interno della lettera M ormai da qualche settimana. E quest'oggi incappiamo in un signore del rock and roll. Risponde al nome di Mark Knopfler. 3x1. Stick for my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. anything do. Milkshake mixes, that's my thing now. These guys bought a heap of my stuff, and I gotta see a good thing sure enough now. Folks line up all down the street, and I'm seeing this girl divide her and me now. And then I get it, wham, as clear as day. My pulse begins to hammer and I hear a voice say, these boys have got this down, ought to be one of these in every town. These boys have got the touch, it's clean as a whistle and it don't cost much. Wham, bam, you don't wait long, shake, fries, plenty of gold. How about that friendly name, heck, every little thing ought to stay the same. Oh, my name's not Croc, that's Croc with a K. Like crocodile, but not spelt that way now. It's doggy dog, ready, ready. Clock start, boom like that. You're gonna need a helping hand now. So gentlemen, well, what about me? We'll make a little business history. Well, we build it up and I buy him out. But man, they make me grind it out now. They open up a new place, flipping me. So I do too, right across the street. I got the name, I need the town. They sell up in the end and it all shuts down. Sometimes you got to be an SOB. You wanna make a dream reality. Competition, send them south. They're gonna drown, put a hose in their mouth. You're not past gold, go straight to hell. I smell that immune smell. Oh, my name's not Croc, that's a Croc with a K. Like crocodile, but not spelled that way now. Oh, it's doggy dog, ready, ready. Doggy dog, ready, ready. Staying afloat, we had to leave on a ferry boat. Economic refugees on the run to Germany. We had the back of Maggie's hand. Times were tough in Geordie land. We got our tools and work and gear and humped it all from Newcastle to here. We'll be right back. German build and British mill. Deutschmarks here to earn, in German tarts are wunderschön. German beer is chemical free. Germany's our rich. Sometimes I miss my river time. But you're my pretty frown. Tonight we'll drink the old town dry, keep our spirit levels high. Leader, chitarrista, cantante dei Dire Straits, in realtà quest'oggi ce lo siamo gustati in un 3x1 dedicato alla sua carriera solista, Mark Knopfler. Terminiamo la tripletta con Why Amen, tripletta iniziata con What Is It, e in mezzo invece ci siamo ascoltati Boom Like That. Le ultime tracce per il Frigidaire di questo martedì pomeriggio, già partite in sottofondo i celebri U2 con il nuovissimo singolo Windows in the Sky. Shackles are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed. tutto per Frigidaire di questo martedì pomeriggio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e invitarvi, come sono solito fare in questo ultimo intervento, agli appuntamenti con DJ Set piuttosto che live. Ed è proprio una doppietta quella alla quale vi invito questa settimana: venerdì sera dal vivo dagli amici del Mulligan's Pub a Ortimino Montespertoli, dove suonerò con i miei Pay con questo nuovo concerto Elettro 80, la rappresentazione di Federico Tre, Il Destino in Fausto e altri classici dei Pay, con me nella veste di Mr. Granchio e il buon Mr. Pinguino. Ricche sorprese, tra l'altro prima assoluta in terra toscana, dove non siamo mai venuti con questo nuovo spettacolo. Invece si resta sempre in Toscana anche sabato sera, questa volta per un DJ set. L'invito che vi faccio è per il Baraonda di Massa Carrara, dove ci saremo questo sabato io e il buon Max De Rio. È tutto per Frigidaire, si conclude roccheggiando alla grande con Backbeat e la loro versione di Good Golly Miss Molly. A domani. Good Golly Miss Molly. She kissed me, made me tingle, tingle.